¡Yepa! ¡Yepa! Essere soli e vedere il sole, soli noi due, come mai lo siamo stati? Soli vicini, stelle luminose, astri orbite incrociate, abbracciarsi sotto tutto questo blu. Essere persi e non ricordare quanti passi ci vorranno ancora fino a domani. Se mai sarà domani, poi lambda, sapersi veder fluttuare nell'aria rarefatta, per depeso equilibrio, ragione che non sia solo immaginazione. Lambda, lambda, sul bordo di un pianeta sconosciuto, respirare la sua aria, bere dalle sue sorgenti, sentire i suoi suoni, posare le mani sui colori, risvegliarsi al centro di un pianeta riconosciuto, fluttuare nella sua aria, nuotare nelle sue sorgenti, cantare i suoi suoni, disegnare tutti i suoi colori. Lambda, di-di-di-di-di-di-da. Lambda, di-di-di-di-di-di-da. Essere soli e vedere il sole, soli noi due, come mai lo siamo stati? Soli vicini, stelle luminose, astri orbite incrociate, abbracciarsi sotto tutto questo blu. Essere persi e non ricordare quanti passi ci vorranno ancora fino a domani, se mai sarà domani. Puoi da, lambda, di-di-di-di-di-di-da. Sapersi ritrovare a fluttuare nell'aria rarefatta, per depeso equilibrio, ragione che non sia solo immaginazione, che non sia solo immaginazione. Lambda, di-di-di-di-di-di-da. Lambda, di-di-di-di-di-di-da. Lambda, di-di-di-di-di-di-da. Lambda, di-di-di-di-di-di-da.